Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati, Radio Alma, Brussellando, siamo nuovamente qui con voi questa sera dopo aver trascorso qualche piacevole giorno in vacanza. Siamo tutti quanti reduci quindi da questa bella Pasqua calda un po' dappertutto in Italia come a Bruxelles. Apparentemente a Bruxelles proprio in questi giorni si sono registrate temperature record, mai o comunque negli ultimi 100 anni la Pasqua era stata così calda e soleggiata. Ovviamente questo è di buon auspicio e noi tutti, insomma, siamo anche un po' più allegri, credo, perché il sole è sempre foriero di buon umore, insomma, cambia effettivamente anche l'umore e anche ritornare a lavorare, devo dire la verità, è più piacevole, nonostante ovviamente. Sarebbe bene poter approfittarne e magari essere fuori, come si dice qui, in terrazza, piuttosto che andare a lavorare. Ma come si dice, il lavoro nobilita l'uomo, quindi insomma va bene anche così. Io saluto Dani M in regia. Buonasera a tutti e buona post Pasquetta. Saluto ovviamente i nostri George Eccoci qua. e Fiordaliso. Buonasera. Sono contenta perché abbiamo una puntata molto speciale, forse perché siamo in linea comunque con la Pasquetta, insomma, come voi tutti sapete, la Pasqua è comunque uno dei momenti più importanti per chi si riunisce, insomma, intorno alla religione cattolica. E questa sera parliamo di qualcosa di un po' diverso, però comunque di magico, perché se vogliamo guardare alla Pasqua anche in senso un po' più metaforico, la Pasqua comunque è qualcosa di stupefacente, insomma, è comunque un momento molto importante. Però, come avevamo detto, prima di passare al nostro ospite di questa sera, anzi alla nostra ospite questa sera, avevo promesso a George che avremmo finalmente parlato della teoria delle corde. Non ci credo, finché non ti sento parlare, non ci credo. Allora, però, care amiche, cari amici che siete all'ascolto, chiedo ovviamente venia. Prima perché dovete sapere che quando è nato il dibattito sulla teoria delle corde o teoria delle stringhe, stavo leggendo un testo in francese e quindi non l'ho letto in italiano. Non sono una fisica di base perché non ho studiato fisica, anzi ho studiato forse un altro tipo di fisica. Quindi per quanti invece ne sapessero più di me, e Giorgio sicuramente ne sa più di me, La metafisica è studiata. chiedo veramente venia, insomma, e cercherò di spiegarvi brevemente che cos'è questa teoria delle stringhe. Allora, se le ricerche effettuate coincidono col vero, in fisica la teoria delle stringhe, George in Ascolta, cattedra, vedi? ascolta, ascolta. Già mi ricorda quando sostenevo gli esami all'università, no? E allora la prima domanda, il professore, già ecco, George già stasera è in pole, è in Ah, pole ti sto position. ascoltando. George è già lì che scalpita, guardalo. C'ha gli occhi iniettati di sangue. Allora, la teoria delle stringhe è una teoria che innanzitutto è ancora in fase di sviluppo, comunque, che cerca di riconciliare la meccanica quantistica con la relatività generale. Si fonda sul principio secondo cui la materia, l'energia e, sotto certe ipotesi, lo spazio e il tempo sono in realtà la manifestazione di entità fisiche sottostanti che, a seconda del numero di dimensioni in cui si sviluppano, vengono chiamate stringhe oppure P-brain. Ora, praticamente, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che invece di avere una dimensione, quindi la teoria, quindi questo modello fisico, che cosa Sì. racconta? Che i costituenti fondamentali sono oggetti ad una dimensione, quindi le stringhe, che invece di dimensione nulla, cioè i punti caratteristici della fisica. Allora, mi sono persa. Allora, sto cercando di mettere insieme i pezzi. In pratica non ci sono i punti, ma ci sono le stringhe. Insomma, cambia il modello subatomico così come lo immaginiamo finora. Perché in realtà il termine teoria delle stringhe si riferisce propriamente sia alla teoria bosonica a 26 dimensioni che alla teoria supersimmetrica a 10 dimensioni. Tuttavia, nell'uso comune, la teoria delle stringhe si riferisce alla variante supersimmetrica, mentre la teoria anteriore va sotto il nome di teoria bosonica delle stringhe. P. Perché ovviamente voi mi chiederete, noi siamo interessate alla teoria delle stringhe, perché si dice o si spera che questa teoria possa essere una teoria del tutto, ossia una teoria che inglobi tutte le forze fondamentali e quindi è una soluzione percorribile per la gravità quantistica e in più può descrivere in modo naturale le interazioni elettromagnetiche e le altre interazioni fondamentali. E pensate che proprio grazie a questa teoria sono stati originati progressi nella matematica dei nodi, negli spazi di Calabi-Yau e molti altri campi. E la teoria prende il nome da, ho capito perché tu ne eri interessato, George, perché il teorico fondamentale è stato Gabriele Veneziano, per spiegare le peculiarità del comportamento degli adroni. E che Michele Veneziano è un cugino di George. Sì. E nel 1968, pensate, il Veneziano trovò che una funzione a variabili complesse, creata dal matematico svizzero Leonardo Euler, latinizzato Eulero, trova la cosiddetta funzione beta, che si adattava perfettamente ai dati sull'interazione forte, e quindi praticamente Veneziano applicò la funzione di beta di Eulero, e allora lui riuscì a tradurre tutta un'altra serie di cose. Vogliamo andare avanti? Vogliamo dare anche un'altra ulteriore spiegazione fisica per la straordinaria precisione teorica della formula di Eulero? Bene, ci sono altri fisici che nel 1970 riuscirono ad andare oltre, come Yukio Nambu, Holger Beck-Nielsen e Leonardo Susskind, i quali, rappresentando la forza nucleare attraverso stringhe vibranti ad una sola dimensione, questi fisici mostrarono come la funzione di Eulero descrivesse accuratamente queste forze. E pensate che nel 1974 sia John Schwartz che Joel Shirk e indipendentemente Tamayaki Yoneya studiarono i modelli con caratteristiche da messaggero della vibrazione della stringa e trovarono che le loro proprietà combaciavano esattamente con le particelle mediatrici della forza gravitazionale, e cioè i gravitoni. Schwartz e Shirk argomentarono che la teoria delle stringhe non aveva avuto successo perché i fisici ne avevano frainteso gli scopi. Quindi questo condusse poi allo sviluppo della stringa bosonica di cui parlavamo prima, che è ancora la versione insegnata agli studenti di fisica. Quindi il bisogno originario di un'indipendente teoria degli adroni è stata accantonata con la nascita della cromodinamica quantistica, la teoria dei quark e delle loro interazioni. Ora si spera che la teoria delle stringhe, o qualche derivata da essa, comporterà una comprensione fondamentale degli stessi quark. E si può dedurre che ogni stringa può vibrare in modi molto diversi e che ogni stato di vibrazione rappresenta un tipo diverso di particella. La massa di cui è dotata la particella e i vari modi in cui può interagire sono determinati dai modi in cui la stringa vibra, essenzialmente dalla nota che la stringa produce. Quindi la scala delle note, ad ognuna delle quali corrisponde una particella, è denominato spettro energetico della teoria. E pensate che, insomma, senza poi andare troppo nei dettagli, ci sono anche due tipi di stringa. Ci sono quelle con i suoni chiusi, dove praticamente gli estremi sono congiunti a formare un anello, un loop, e ci sono quelli aperti, che hanno due punti terminali definiti. Insomma, questa è una teoria estremamente interessante, perché poi è andata avanti. Tra il 1984 e il 1986, i fisici compresero che la teoria delle stringhe avrebbe potuto descrivere tutte le particelle elementari e le interazioni tra di loro, e centinaia di loro iniziarono a lavorare sulla teoria della stringa come l'idea più promettente per unificare la fisica. E questa prima rivoluzione delle superstringhe era iniziata dalla scoperta di un anomalo annullamento della teoria delle stringhe di tipo 1 da parte di Michael Green e John Schwartz. E l'anomalia venne eliminata grazie a questo meccanismo che ovviamente si chiama Green-Schwartz. E altre inaspettate e rivoluzionarie scoperte come la stringa eterotica vennero fatte nel 1985. Che cosa possiamo raccontarvi di più? George? Beh, insomma, spiegata così non so se si è capito molto. Come non si è capito? Si è capito tutto, tutti questi termini però tecnici. Una cosa che posso, che si potrebbe aggiungere, sì, della cromo, della scala cromatica, se vogliamo, per spiegare i quark che hanno colori e sapori, come voi sapete, sono definiti in questo modo, e però quello che a me piace molto è sulla tonalità. E mi piace parlare di tonalità, anche se non voglio entrarmi adesso nel discorso delle stringhe, perché insomma dovrei trovare un modo un po' più semplice di spiegare gli effetti delle corde, la teoria delle corde. Però mi diverte questa questione della tonalità, perché questa sera parliamo di qualcosa di particolare, e anzi parliamo di qualcosa di sonoro. Qualcosa di sonoro che però è in un campo completamente diverso. Non parliamo più di fisica, ma parliamo di fantasia. Fantasia in cui, come vedremo fra un po', il sonoro c'entra molto. Beh, in realtà, pensando anche alla stessa forma delle stringhe, no? A questa dimensione che ovviamente va ad alterare quella che è la fisica quantistica tradizionale, pensiamo al sonoro, un collegamento c'è. Certo, insomma, volendo, un po' tirato per i capelli, però insomma... No, c'è il collegamento sonoro, perché in effetti ci sono delle tonalità che hanno comunque... sono tentativi di spiegare in qualche modo, così come si parla di vibrazione, eccetera, ovviamente sono prodotto da vibrazione, quindi ecco, cerca di utilizzare delle cose note, di dare dei nomi noti a qualcosa che è completamente nuovo. Quello che è interessante è che stiamo ancora cercando di capire appunto qual è questa forza che unisce tutte le forze conosciute, interazioni forti, deboli, forza nucleare debole, forza nucleare forte. Perché in realtà quello che... La gravità. Abbiamo quello che dicevamo prima, magari in termini un po' troppo difficili, è che questa teoria delle stringhe ci dice ad esempio che il campo elettromagnetico deve soddisfare sia l'equazione di Maxwell, sia il campo gravitazionale di Einstein. Quindi l'elettrone deve soddisfare l'equazione di Dirac e così via. Quindi nelle ordinarie teorie di campo quantistiche, queste equazioni vengono da noi soluzionate tra molti e diversi tipi di equazioni possibili e sono imposte ad hoc in base a motivazioni ovviamente puramente fenomenologiche. Quindi la teoria delle stringhe è consistente a livello quantistico, ovvero in termini tecnici e priva di anomalie, se le particelle che descrive soddisfano condizioni differenziali che si riducono, in prima approssimazione a bassa energia, all'equazione di Maxwell per il fotone, all'equazione di Einstein per il gravitone, eccetera. Però, pensate, non esiste al momento, attualmente, nessun'altra teoria capace di predizioni così efficaci e potenti. E vorrei solo concludere, così magari poi passiamo all'ospite di questa sera, che un'osservazione importante riguarda il numero di dimensioni dello spazio-tempo. La teoria delle superstringhe può essere formulata in modo corretto e consistente con le leggi della relatività e della meccanica quantistica solo in uno spazio-tempo con 10 dimensioni, di cui una temporale e 9 spaziali. E quindi la teoria prevede dunque l'esistenza di 6 dimensioni spaziali extra che si aggiungono alle 3 dimensioni, quindi a questa dimensione tridimensionale che noi oggi tutti conosciamo. E quindi queste dimensioni aggiuntive sono tanto reali quanto le altre, ma difficili da rilevare perché si estendono su distanze molto piccole, oppure per il fatto che risultano pressoché impenetrabili alle interazioni con le quali ovviamente esploriamo lo spazio ordinario. E la rivelazione o l'esclusione sperimentale diretta o indiretta di questa dimensione extra è una delle sfide più avvincenti che la teoria delle stringhe si propone e che probabilmente ci terrà impegnati ancora molto tempo. Per quanti ci ascoltano fedelmente sanno che martedì scorso abbiamo molto parlato di Ermanno di Carinzia, che intorno all'anno 1100, quindi 1000 anni fa, grosso modo, fu il primo a capire che ci poteva essere una dimensione diversa. Pensate, Newton non aveva ancora elaborato quella che poi era la legge gravitazionale. Esatto, la legge gravitazionale. E da qui, poiché avevamo già parlato di corde un po' di tempo fa, e siccome non avevo avuto il tempo di approfondire la questione, ci siamo ripromessi di aprire proprio questo martedì, insomma, postumo alla domenica di Pasqua, per interrogarci su fenomeni un po' particolari. Come giustamente Giorgio diceva, probabilmente l'arte e quindi la fantasia possono sicuramente dirci qualcosa in più e possono aprire magari a queste famose 6 dimensioni di cui non abbiamo percezione che... Insomma, lì veramente cominciamo a sfociare nell'ambito della magia, perché eravamo abituati a 3 dimensioni. Poi ci hanno detto, quale 3 dimensioni? C'è un'altra che è lo spazio, che è il tempo. Ma c'è un'altra, 4ª dimensione, cioè è una dimensione come le altre, sì, anche il tempo è una dimensione. Poi abbiamo scoperto, ma guarda, si può arrivare fino a 10 addirittura dimensioni, adesso la teoria delle stringhe me le porta ancora più in là, da altri 6. Beh, il concetto è questo, è vero, cioè il visibile e l'invisibile, è questo il gioco. E allora, la magia ci ha sempre parlato dell'invisibile e non del visibile. Dell'invisibile che si fa visibile solo a tratti. Tra l'altro. E allora, come la mettiamo? Voglio dire. Vogliamo forse recuperare il concetto di magia? Ma sai, potremmo anche pensarci, perché no? Poi non è detto che tutto ciò che sentiamo esiste davvero e tutto ciò che non vediamo non esiste. Ah no, è incredibile, ovvio, perché tanto il mondo dell'invisibile è enorme e insomma, ed è invisibile solo perché noi non riusciamo a vederlo, ma nel momento in cui riusciamo a vederlo, ecco che diventa visibile, quindi così, non è più invisibile. Esatto, così come io vorrei poter non vedere l'incartocciamento di fili che sta avvenendo intorno al microfono, devi ma invece passare c'è. Semplicemente la tua cuffia in mezzo alla borsa. Ho fatto, con un po' di rumore, ma ci sono riuscita. A proposito di invisibile, a proposito di magia, io sono veramente contenta che, poiché non sono mai stata in Egitto e forse non ci vado dati i tempi e i momenti che si stanno vivendo laggiù, a Bruxelles sbarca Tutankhamen. Tutankhamen con la sua tomba e i suoi tesori. La mostra è iniziata il 20 aprile, quindi la settimana, la settimana scorsa. La tariffa è tra i 6 e i 16 euro. Ovviamente tutti quanti sono invitati a partecipare. È aperta da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 e la notturna il mercoledì fino alle 21. La visita dura 1 ora e 30. Veramente, per quanti amano la cultura egiziana e per quanti vogliono farsi un'idea di questo faraone che insomma tanto ci ha fatto sognare, veramente vi consigliamo di partecipare, insomma di visitare questa mostra, perché ne vale la pena. Ci sono più di 1000 oggetti, repliche precise scientificamente approvate di quelle che costituiscono oggi una reale prova di quella che era la vita che si conduceva nell'Egitto di più di 1000 anni fa, possiamo dire. Per quanti volessero saperne di più, hai voglia, più di 1000 anni fa, più di più di un bel po' in più, ecco, vedi, kingtutbrussels.be, ovviamente pronunciato Brussels così come si scrive. Sono tanti i commenti che noi abbiamo anche rinvenuto su internet e tutti i commenti che abbiamo potuto visualizzare sono estremamente positivi, quindi vi ricordiamo Tutankhamen sbarca, approda a Bruxelles, la sua tomba e i suoi tesori quindi non saranno più un mistero per nessuno. Veniamo invece alla nostra ospite alle corde, al sonoro, e quindi finalmente le corde sonore, quindi finalmente introduciamo Simona. Simona è una giovanissima autrice, lavora però nel campo della consulenza informatica e La chiave del regno delle fate è il suo primo libro di favole. Simona. Sì, buonasera. Benvenuta a Radio Alma. Che bella voce squillante. Che grazie, bello. Grazie. Mi sento molto lontano, forse sarà perché io sono qua in Italia e voi in Belgio. Ma chi lo sa, forse qualcosa nell'aereo che ci impedisce di sentire. Adesso chiediamo in regia di alzare il volume se possiamo dei nostri microfoni, magari ci senti un po' meglio. Sì, adesso va meglio. Guarda, di tanto in tanto tra la linea telefonica e i nostri microfoni, sai, insomma, c'è un po' un vuoto da colmare. Allora, Simona, tu hai scritto un libro di favole, molto molto carino, La chiave del regno delle fate, e ci chiedevamo innanzitutto dove nasce questa tua passione per la scrittura e poi capiremo stava facendo proprio perché hai scritto di fiabe. A me piaceva già scrivere quando ero piccola, quando mi davano da fare i temi liberi a scuola io ero felicissima. Poi diciamo che non l'ho coltivata da subito questa passione, ne ho coltivate altre perché mi piace fare tante altre cose creative, decorazioni, modellare la pasta al mais, una serie di cose infinite. E ho ripreso questa passione qualche anno fa e il libro è nato perché durante una vacanza estiva le mie figlie, che allora avevano qualche anno in meno, come penso capiti la maggior parte delle volte con i bambini, non volevano mai andare a letto la sera. Ogni volta che rientravamo dalla passeggiata e diceva ora di andare a letto, c'erano sempre un sacco di proteste. E allora mi è venuta l'idea di inventare una storia a puntate, e ogni sera raccontavo un pezzettino e lasciavo un po' di suspense, in modo che la sera successiva ci sarebbe stata la voglia e il desiderio di sapere come andava a finire, quindi le proteste sarebbero state un po' meno intense. E infatti così è stato, e quindi per circa 2 settimane ho raccontato un pezzettino di storia per volta, finché poi è arrivata la fine. Però era rimasta soltanto, diciamo così, come favola orale. Poi, ecco, qual è stato il salto? Perché sai, raccontare le fiabe, magari tutti i genitori raccontano le fiabe, però penso non tutti abbiano il desiderio poi di trascrivere su carta e poi magari di pubblicare addirittura la fiaba. È partita come idea. La pubblicazione è una cosa che è arrivata in seguito, perché in realtà in un momento in cui non avevo altri hobby per la mente ho deciso di metterla per iscritto, perché ho pensato che magari sarebbe stato bello per le bambine, una volta cresciute, poterla rileggere. E scrivendola però è diventata molto più vasta, più grande, più ricca di quando è nata, ovviamente, perché un conto è raccontare un fatterello così, metterlo per iscritto diventa più complesso, e nel momento in cui scrivevo io mi vedevo come un film di tutte le scene che accadevano, e quindi le ho riportate tutte su carta. E siccome io sono sempre impaziente di far vedere le cose che produco, ogni capitolo lo leggevo alle bambine a casa e lo mandavo anche a una mia amica, e lei leggeva questi capitoli, il giorno dopo mi faceva avere le sue impressioni, così come le mie figlie. E questa storia è piaciuta moltissimo a tanti altri che l'hanno letta, e mi hanno detto: ma perché non provi a vedere se riesci a farla pubblicare? E così è successo, in effetti. Ogni capitolo poi, o comunque più o meno ogni capitolo, è accompagnato anche da uno schizzo che sembra essere a matita. Sono i disegni delle tue figlie? Forza. Prego? Sono stati obbligati questi, non tanto dalle mie figlie quanto dalle loro amiche. Ho capito. Perché i bambini di oggi soprattutto, perché io mi ricordo quando ero piccola leggevo anche le favole dei fratelli Grimm, e di illustrazioni ce n'erano veramente poche, magari una. Invece i bambini moderni sono abituati a avere libri molto colorati e molto illustrati. E quindi le loro amiche, quando leggevano questo libro, erano un po'... diciamo che non erano così attente alla descrizione quanto al fatto di vedere effettivamente poi un'immagine di quello che stavano leggendo, e così ho dovuto per forza inventarmi delle illustrazioni. Sono molto carine, devo dire la verità, in effetti i bambini hanno avuto ragione, le bimbe hanno avuto un po', come si suol dire, occhio, perché effettivamente poi così facendo questa immagine racchiude anche un po' il significato di ogni capitolo. E c'è un autore in particolare a cui insomma tendi quando scrivi? Insomma, c'è un autore più che un altro che è di tuo gradimento nella... Come ti dicevo, a me piacevano moltissimo le favole dei fratelli Grimm, ancora oggi ogni tanto mi capita di rileggerle, perché un libro l'ho regalato anche alle mie figlie. E mi piaceva molto l'atmosfera che veniva ricreata grazie a tutte le descrizioni minuziose che contenevano. Quindi diciamo che come ispirazione è quella. E poi mi piaceva moltissimo anche Il Signore degli Anelli, però adesso non voglio arrivare a fare paragoni, ecco. No, sai, ci sono comunque romanzi. Io ho letto Il Signore degli Anelli prima ancora che diventasse quello che è diventato, tant'è che non sono andata al cinema a vedere, forse sono tra i pochi a non esserci andato, però insomma, sai, sono quelle letture effettivamente fantastiche che tutti forse avremmo voluto scrivere. E qual è stata la reazione del pubblico dei più piccoli? Perché so che tu hai presentato insomma questi tuoi racconti anche nelle scuole, e qual è stata la reazione dei bambini? Allora, i primi ovviamente che hanno potuto leggere questo libro sono stati i compagni di classe delle mie figlie, e alcune mamme mi dicevano: ma guarda, mio figlio stava leggendo un altro libro, l'ha abbandonato per leggere il tuo, gli è piaciuto molto, e chiaramente questo mi ha fatto piacere. E addirittura nella classe della bambina più piccola le insegnanti l'hanno apprezzato molto, l'hanno letto in classe, l'hanno utilizzato anche per spiegare termini magari che non erano di uso comune per i bambini, e mi hanno chiesto se ero disponibile a collaborare con loro per realizzare un musical. Un musical, infatti, dai! Sì, infatti l'anno scorso con la classe terza, che era la classe della mia bambina più piccola, tutto l'anno abbiamo preparato questo musical, quindi io dovevo seguire assolutamente, senza nessuna esperienza di questo tipo, la parte di recitazione. Poi c'era un insegnante che aveva preparato tutte le coreografie per i balletti, un'altra che si è occupata delle canzoni, è venuto uno spettacolo di 2 ore che insomma per una classe elementare è un bello spettacolo che ha avuto un successone incredibile. Veramente è stata un'esperienza stupenda, perché i bambini si sono impegnati, gli è piaciuto moltissimo, anche i bambini timidi, mi diceva l'insegnante che grazie a questa attività si sono ritrovati ad avere questo desiderio proprio di mostrarsi agli altri, e quindi è stata una cosa importante. E com'è è cambiata, o comunque è cambiato lo stile o la percezione della tua scrittura quando l'hai messo in scena? C'è stato un cambiamento? Eh sì, intanto ho dovuto improvvisare e scrivere la scenografia, che la sceneggiatura, che anche questa non è una cosa che io faccio di lavoro, per cui insomma è stata un'impresa. Poi siccome i bambini erano tanti, perché erano due classi ed essendo un progetto scolastico, dovevamo fare in modo che ogni bambino avesse una parte pur piccola da recitare. E quindi è stato deciso di dividere la storia in quattro blocchi, e ogni blocco veniva rappresentato da più bambini, e il personaggio, non so, Celestino per esempio, mm-hmm. che dura per tutto il racconto, lo interpretavano quattro bambini diversi. Vabbè, certo. Quindi, insomma, non è stata una cosa facilissima, però alla fine erano tutti soddisfatti. Poi i bambini hanno sempre delle risorse che uno neanche si aspetterebbe, delle domande incredibili che ti lasciano di sasso, perché non si sa mai bene dove vogliono andare a parare quando te le fanno. Vabbè, immagino. Imprevedibili. Essere molto cauti. Al limitare del bosco, nel paese di Terra Serena, si trovava una piccola e graziosa casetta, bianca, con il tetto spiovente di tegole rosse, un allegro comignolo che fumava, e persiane verdi alle finestre. In questa casetta vivevano Agenore e Gesuina, i nonni di Celestino. Celestino era un simpatico e vivace bambino di 9 anni, con i capelli ricci e castani e le gote paffute e cosparse di lentiggini. Tutte le estati, quando finiva la scuola, Celestino si trasferiva a casa dei nonni che lo accudivano, mentre la mamma e il papà rimanevano in città a lavorare. Come quasi tutti i bimbi della sua età, Celestino era vivace e curioso e trascorreva gran parte delle sue giornate esplorando i dintorni alla ricerca di nuove avventure, seguito come un'ombra da Birillo e il buffo cagnolino grigio dei nonni. Spesso Celestino e Birillo percorrevano assieme il corso del torrente Chiacchierino, che scorreva gorgogliante accanto alla casetta dei nonni, all'inseguimento di ranocchi e pesci guizzanti. Non si avventuravano mai, però, oltre il limitare di Bosco Sonoro, all'interno del quale spariva il torrente, perché in tutta la valle di Terra Serena si narrava che il bosco fosse fatato, e per questo motivo nessuno osava addentrarvisi. La leggenda raccontava che in prossimità del bosco, nelle notti serene in cui splendeva la luna piena, si potessero udire ammalianti melodie che avevano il potere di trascinare all'interno della foresta chi le avesse ascoltate, nella parte più folta e oscura, tra rami e fronde così fitte che avrebbero impedito a chiunque di trovare la via del ritorno. Le giornate passavano spensierate per Celestino, che spesso aiutava il nonno Agenore con i lavori dell'orto e la nonna Gesuina nella preparazione di gustose crostate alle fragole e lamponi che lui stesso andava a raccogliere tra i rovi che costeggiavano il torrente Chiacchierino. E in una notte tiepida di mezz'estate, allietata dal canto dei grilli, nei sogni di Celestino si insinuò una dolce melodia che lo fece destare. Il suo letto era avvolto da una bassa nebbiolina rosa che odorava di lamponi freschi e che entrava fluttuando dalla finestra aperta. Celestino si alzò, imitato da Birillo, e insieme si affacciarono alla finestra. Il paesaggio era illuminato dalle stelle e dalla luna piena che brillavano nel cielo sereno. La melodia che lo aveva destato e che ora si udiva appena, pareva giungere insieme alla scia di nebbiolina proprio dal bosco sonoro, all'interno del quale si indovinava un lieve bagliore. La curiosità di Celestino fu più forte del ricordo degli ammonimenti fatti dai nonni, e così, dopo essersi vestito, uscì dalla casa senza far rumore e con Birillo alle calcagna seguì il dolce suono fino ad addentrarsi nel folto del bosco. Simona. Sì. Abbiamo letto un estratto. È ancora più bello da leggere così bene. Non mi sembra neanche quello che ho scritto io. Questo vedi è quello che accade quando si cambia la prospettiva spazio-temporale. Vale. Questo è un omaggio a Giorgio. È il libro questa. No, siccome prima di te abbiamo parlato di teoria delle corde o delle stringhe, sì. E allora ci veniva in mente che siccome la teoria delle stringhe si parla anche di tonalità, mi hanno detto, ci parla di stringhe vibranti che vibrano di tonalità, beh, ecco perché bosco sonoro. Certo, per questo che è nato Bosco Sonoro. E poi a me è piaciuto molto inserire molti suoni, cioè la percezione sensoriale ho cercato di inserirla molto nel libro, sia suoni e profumi, è un'idea che mi è piaciuta molto. Poi non so se è gradita anche a chi lo legge, però siccome appunto quando leggevo le favole da bambina mi piaceva sentirmi immersa nella favola, ho cercato di replicare questa cosa descrivendo tutto, i suoni, gli odori, e poi vabbè ovviamente le descrizioni visive che sono quelle alla base dei racconti. Beh, è abbastanza comprensibile che una scrittrice descriva anche i profumi o gli odori, perché le donne, come si sa, hanno un olfatto più sviluppato di quello dei maschietti, è purtroppo una questione di numero di sensori, quindi è anche molto bello, tant'è che insomma è cosa abbastanza nota che le donne in attesa di bambini, cioè le donne incinte, sviluppano in quel periodo un particolare olfatto e quindi sono tutti gli odori del mondo. E quindi è bellissimo anche perché nella teoria, cioè ormai si sa che i ricordi in realtà non sono fatti da un'immagine singola, ma sono una congerie di sensazioni diverse, di stimoli diversi che si intersecano uno con l'altro per creare ricordo. Quindi in effetti magari capita a tutti di andare in qualche luogo, sentire un profumo, un odore particolare ed avere un'immagine che sale alla mente, ecco. Quindi credo che sia fondamentale scrivere, credo che sia fondamentale scrivere anche dei profumi, perché questo aiuta proprio la memoria e dei bambini che sono sensibilissimi a questo. Simona, cosa bolle in pentola per il futuro? Ma io in realtà ho già scritto la seconda avventura di Celestino. E proprio settimana scorsa sono andata in una scuola qua, in un paese qua vicino a Milano, e i bambini tra le loro domande mi avevano chiesto se avevo scritto qualche cos'altro. Quando gli ho detto che ne avevo scritto la seconda parte, hanno voluto sentirne un pezzo, poi loro in realtà avrebbero voluto sentirlo tutto, ma non potevo trattenermi così tanto. Però loro hanno detto che gli è piaciuto molto questa prima parte, in effetti anche le mie figlie hanno detto che gli piace ancora di più del primo. Staremo a vedere, non so, ancora non ho provato a sottoporre al giudizio di nessuno del mestiere. Ma è un seguito quindi di questa storia? È il seguito della chiave? Sì. Quindi Celestino continua nelle sue avventure? Esatto, cresciuto però, perché come crescono le mie figlie cresce un po' anche lui. Eh beh, certo, il punto di vista poi gradualmente tende a, insomma, a cambiare. E raccontaci invece un po' di te, qualcosa, insomma, perché tu nella vita ti occupi di altro, no? Sei una consulente informatica. Io sono un'informatica in realtà, che è una cosa molto razionale, no? Effettivamente sì, non c'entra molto con le mie passioni, però devo dire che anche lì non è che riesco malissimo. E poi ho un sacco di hobby però che invadono la casa, infatti mio marito ogni tanto è disperato perché non sa più dove mettere le mie creazioni, infatti per fortuna le creo e poi le regalo in giro, perché sennò non saprei davvero dove nasconderle. Di che creazioni si tratta? Di che cosa ti diverti allora, a creare? Tingere tutto da autodidatta, premesso, perché io ho fatto studi scientifici, per cui non c'entrano assolutamente niente, però mi piace dipingere, ogni tanto dipingo con gli acquerelli, oppure dipingo su vetro, o non so, faccio collane all'uncinetto, c'è stato il periodo delle collane con le perline, facevo collane per tutte le amiche, oppure la pasta al mais, per cui ho creato un sacco di soggetti, ho fatto le bomboniere per la comunione di mia figlia, insomma così, quello che mi viene in mente io creo. Questo materiali, decoro magliette, ecco, tutte cose così. Una personalità poliedrica. Basta che non mi si chieda di replicare qualcosa perché mi passa tutta la voglia. Sai, la replica poi, insomma, non è mai una replica, tutto sommato. Io faccio pezzi unici, perché sono dettati dal momento, dall'estero del momento. Se devo fare una cosa in serie non mi piace più. Certo, tra quello che poi è l'umore del momento, quello che poi è l'ambiente circostante, magari c'è meno luce, c'è più luce, anche quando si crea, insomma, l'elemento luce è interessante. Vedo Daniele che scalpita in regia. Daniele, Simona è il nostro regista. Sì, Simona, io ti volevo chiedere una cosa. Per conciliare la tua vena artistica con la tua con le tue capacità informatiche, perché non inventare un giochino o, come si suol dire adesso, un'application o per iPhone o Android ambientata con la tua storia? Bravo Danielle. Sono un'informatica, però adesso sono un'analista funzionale, non programmo più, non sono aggiornata sui nuovi linguaggi di programmazione. Dovrei proporre alla mia azienda, però per adesso non siamo buttati nel ramo giochi, siamo su altro, finanza, assicurazioni, industria, però non è detto, Non si sa mai, sai, da cosa? Da cosa nasce cosa, no? Oddio, però esatto, non si può mai dire. Tra finanza e giochi, insomma, io non vedo un'enorme distanza, ecco, insomma. C'è. Non è detto, perché con i fantasy si potrebbe anche colmare. Assolutamente sì. Beh, per tutta una serie di aspetti, direi, piuttosto che colmare, anche reinventare, quindi Simona, esiste la finanza creativa, per cui infatti. Assolutamente. E c'è anche un bellissimo film, a meno così mi dicono, non ho ancora visto, si chiama Unlimited. Zero, zeros, 65 cents. Enter your destination number followed by the star key. Bella Pepina, abbiamo avuto un messaggio regia. Abbiamo avuto un messaggio dalla regia, siamo stati interrotti dal mondo delle telecomunicazioni che ci ha tagliato i fili. Speriamo di riuscire ad entrare in contatto di nuovo, almeno per salutarla, perché insomma. Ah, è stata molto brava. Molto brava, mi piace molto. Poi il libro è molto ben scritto, c'è uno stile, una forma, si legge facilmente, velocemente, quindi speriamo di poter avere una copia anche qui a Bruxelles, quindi La chiave del regno delle fate, edito da Albatros, ricordo Simona Garavaglia. Aspettando Simona, io direi che potremmo aprire, se Fiordaliso è pronta, un 5 minuti di Librangolo. 5 minuti di Librangolo, siamo pronti? Ci sei? Sì. Questa è una novità. Che bello. George, questo mi è piaciuto tantissimo. Ma tu sei un creativo. Ma tu sei un creativo che sorprende sempre. Attenzione a quella consonante finale che potrebbe cambiare. Tu sei un birbante, altro che creativo. Sei un birbante. Allora, io stasera pensavo di parlarvi di libri anomali di scrittori che hanno un certo stile un certo approccio. Per esempio, Georges Simenon ce l'abbiamo nella mente come il creatore di Maigret, di storie poliziesche, di questo personaggio calmo con la sua pipa, nella sua normalità, che però ha sempre delle intuizioni geniali su quello che succede, sui crimini che gli vengono sulla strada. Però oltre a questo, anzi il modo in cui nasce Georges Simenon come scrittore non è come scrittore di gialli, ma è come scrittore di storielle, non necessariamente leggere, ma ne ho letto un esempio che si chiama La Marie del Porto, che è stato tradotto anche in italiano, e che è una storia di amore fra un proprietario di caffè che è abituato ad avere un sacco di donne, di semplicemente comprarli, fra virgolette, e una ragazza giovane pura che rimane orfana e che invece alla fine sboccia davvero, cioè nel senso che con la la ragazza è capace di aspettare, anche in un modo che alla fine la storia ha una lieta fine. Cioè, tutto questo è posto in un ambiente di paesi portuari con la loro gente che sa molto di realtà, sa molto di probabilmente lui ha vissuto in questi ambienti e li conosce la sua gente, conosce i suoi avvenimenti. Quindi sono anche dei libricini suggestivi, diciamo, non sono alta letteratura, però sono molto piacevoli da leggere. Per esempio, un altro scrittore che ha scritto anche dei libri anomali, diciamo, è A.G. Wells, che abbiamo in mente soltanto La macchina del tempo, L'uomo invisibile, quindi tutte storie un po' fantastiche, un po' che stanno parlando della moralità, delle utopie, di dove va a finire il mondo, eccetera. Ma lui ha scritto, per esempio, anche un libro che si chiama L'amore e il signor Lewisham, di cui ho ancora soltanto cominciato a leggere, ma che sembra la storia di due giovani che si incontrano, che si innamorano, ma che dopo devono vedersela con le verità e le realtà della vita, che scelgono di affrontare insieme, anche se non hanno necessariamente i mezzi di farlo. Ma non soltanto loro hanno creato dei libri anomali, anche Agatha Christie, che è la grande signora del giallo, sotto il nome di Mary Westmacott, ha pubblicato una serie di libri che sono intitolati libri rosa, ma veramente lei aveva l'intenzione di farne dei libri relativamente psicologici, di analizzare l'anima femminile, di mostrarne i conflitti, eccetera. Purtroppo ancora non posso farvi un esempio che avevo già letto, quindi non continuo per questo, magari più tardi, quando ne avrò l'occasione, ve ne parlerò ancora. Ma anche Haruki Murakami è uno dei nostri strani, perché lui scrive praticamente soltanto dei libri molto strani, molto fantastici, cioè su questo orlo fra la magia e la realtà, fra queste dimensioni che esistono forse, e che a volte danno messaggi al mondo reale. E invece ha scritto proprio il Norwegian Wood per dimostrare che lui fosse capace anche di scrivere un romanzo in cui questo fantastico, questo mondo fantastico non ha un ruolo. Ed infatti ha scritto un romanzo in cui i personaggi, la loro intensità, i loro problemi, la loro psicologia dà un quadro molto teso, molto bello alla storia. Infatti adesso è apparso il film, che è arrivato anche da noi a Bruxelles, quindi probabilmente andremo a vederlo e ve lo facciamo sapere. E qua chiude l'imbrangolo. E speriamo di avere di nuovo in linea Simona. A fra poco. Aspettando quindi Simona. Salut, je suis Nadia. Si comme moi tu veux faire partie de l'équipe de bénévoles de Radio Alma, envoie un message à mail@radioalma.be. A bientôt. Abbiamo anche uno spazio pubblicitario, ma cominciamo, anzi fa bene, perché è uno spazio ad arricchire la famiglia di Radio Alma, dei volontari di Radio Alma. Aspettando quindi, come dicevamo, Simona, volevo ricordarvi invece un'altra mostra molto interessante su Victor Horta, Un mondo perduto. Pensate, ci sono praticamente le opere, o comunque i momenti chiave di quella che è l'opera architetturale di Horta. È una mostra che è aperta già da qualche settimana e lo sarà fino alla fine di ottobre, quindi c'è tempo per poterla ammirare. Alla Chaussée d'Arc 266 a Skarbek, il costo è veramente minimo per quello che secondo me si potrà vedere, tra i 3 e i 6 euro. È aperta il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, quindi chiusa il lunedì e il martedì, dalle 12 alle 18 e fino al 31 dicembre. Scusate, mi ho ritrovato il momento completo. Sento Daniele. Dicembre 2011, ovviamente. Non, che cosa ho detto? Sì, 2011, sì, perché. Sì. 2011. Fino a dicembre di quest'anno. Beh, insomma, Horta è un grande personaggio. Horta vale la pena. È organizzato dalla Maison Autrique, quindi, insomma, veramente vi suggeriamo di andare, perché credo sia. È un'occasione. Un'occasione da prendere al volo. Simona, ci senti? Sei ritornata con noi? Ah, meno male. Sì, sono ritornata. Vedi, di tanto in tanto le distanze si sentono. Simona, noi volevamo, insomma, salutarti in maniera, insomma, più formale, e ci chiedevamo quindi, c'è qualcuno che vorresti salutare in particolare, insomma, approfittare dei nostri microfoni per indirizzare un saluto, un ringraziamento? Allora, prima, mentre pensa ai ringraziamenti, stava raccontando che il suo secondo libro è una continuazione del primo. Parlavo del secondo libro, questo sì. Questo è il fatto, quindi. Sì. Poi ha un titolo molto difficile, perché infatti quando lo racconto ai bambini mi chiedono sempre di fare lo spelling, perché si intitola Lo Snurquick. Lo Snurquick. Snurquick. Lo Snurquick. sì. Snurquick. Perché ho voluto scegliere un nome originale che non ci fosse da nessun'altra parte, così non si confondeva con nient'altro. Beh, insomma, in bolognese Snur, Snaura sarebbe la signora, quindi Snurquick sarebbe la signora veloce. Sì. Ma quello non è per niente bello, quell'esserino, è poverino, è buono, ma non è bello per niente. Eh beh, neanche le Snaura sono proprio... Così no. Definite non è proprio, non è che non sia un complimento, ma neanche un'offesa, però insomma è proprio una Snaura, la Snauraz. Sì, insomma. Ecco, va bene. I luoghi di riferimento quindi sono sempre gli stessi o hai cambiato anche tutti i luoghi che si ritrovano? Te lo racconto così in breve. Celestino deve risolvere un problema che ha suo nonno, che ha un orto rigoglioso, e a un certo punto iniziano a sparire le verdure. E quindi il nonno pensa che possono essere delle talpe prima o i corvi dopo, in realtà Celestino scopre che le vengono diciamo tirate giù da sottoterra, e chi le sta rubando è questo esserino che si chiama Snurquick, che è dovuto fuggire dal suo paese perché è invaso da bruchi giganti che divorano tutto, e quindi questo popolo particolare che ha un po' di forme, un po' da radice, che è abituato a vivere coltivando, deve scappare, scava cunicoli sottoterra e deve per forza appropriarsi delle verdure altrui. E quindi Celestino dovrà fare un'avventura per liberare questa terra da questi denti, da questi bruchi giganti che si chiamano brucodenti. Ma non è che poi cominciamo ad avere Celestino 1, 2, 3, 4, 5, poi finiamo con la morte di Celestino, lo scontro. Tipo Rambo, dici? No, tipo Rambo Harry Potter. 1, 2, 3. Pensavo a Harry Potter. No, infatti, il riferimento è... Beh, perché no, perché no, ma perché guarda, no? Non è che mi dispiacerebbe fare la fine della Rowling, se sinceramente. Noi poi te lo auguriamo, quindi sì, insomma. Con tutto il cuore. Perché no? A me basterebbe poter pubblicare anche il secondo. Eh beh, noi ci auguriamo che insomma la trasmissione di questa sera sia foriera e preludio di tante belle cose. Che l'abbiano ascoltato. Sì. Speriamo che chi l'ha ascoltata sia stato invogliato a leggere questo libro. Ma gli elementi ci sono, poi lo ricordavo prima mentre... Insomma, che è comunque un libro molto ben scritto ed è raro ultimamente, noi leggiamo tanto qui a Brussellando, trovare un libro dove ci sia ancora della forma, del contenuto e che insomma sia piacevole anche nella lettura, malgrado ovviamente è un libro di favole, però anche per quello e soprattutto attirare oggi come oggi l'attenzione di un bimbo è sicuramente molto più difficile di quello che accadeva ai tempi dei fratelli Grimm. Sì. Questo sicuramente, perché per me è una soddisfazione enorme che piaccia anche agli adulti, ma tanti colleghi mi hanno detto che l'hanno letto molto volentieri, per cui è bello che piaccia sia ai grandi che ai piccoli, insomma. Ma è bello perché insomma riuscire a mantenere vivo il bambino che c'è in noi è essenziale, quindi leggere le favole mi piace moltissimo. Io ce l'ho bello grande, bello vivo e vegeto, sicuro. È bello scalpitante, me ne compiaccio, me ne compiaccio. Bene, Simona. Un po' bada ogni tanto. No, perché certo. Dai, forse è quello che poi magari ti permette di scrivere, di essere creativa, insomma, visto quante cose fai. Sì. Insomma, quindi... Io sono sempre stata un entusiasta, io mi entusiasmo perché per le cose piccole che mio marito mi prende in giro delle volte, però è meglio così piuttosto che essere indifferenti a tutto. Ah no, questo sicuramente. Un saluto allora a qualcuno in particolare, qualcosa, insomma, hai un minuto dai nostri microfoni per poter... Sinceramente, io saluto tutti gli italiani che sono lì in Belgio perché non li conosco. Grazie. Quelli che ci sono qua non mi sentono, per cui e niente, ringrazio voi moltissimo perché mi sono trovata benissimo. Speriamo di risentirci per il secondo, magari. Guarda, volentieri. Siamo noi veramente che insomma ci auguriamo che possa esserci un seguito alle storie di Celestino, e ovviamente ti auguriamo veramente tanto coraggio nel procedere con la pubblicazione anche del secondo volume, e facci sapere, insomma, noi saremo veramente felici di riproporti anche su queste onde. Anzi, forse l'anno prossimo andiamo anche in streaming, quindi tutti potranno sentirci e potranno sentire la storia dello Snurquick. Perché no? Simona, complimenti ancora, ti auguriamo ancora un'ottima serata e magari da parte nostra un bacio anche alle tue bimbe. Come si chiamano le bimbe? Martina e Camilla. Ah, vedi, allora Martina e Camilla, quindi un grande bacio soprattutto da Giorgio e magari da Dani in regia. E... Che non si è offesa perché la cattiva si chiamava Domitilla e quindi si assomigliava un po'. Ma tanto lei si chiama Camilla. Quindi, ma non ha detto anche lei finisce. Non ha detto anche lei finisce Illa. No, nel secondo libro ci sono anche loro due sotto forma di sorelle di un mago malvagio da bellissime trasformate in due streghette mostruose, per cui una si chiama Mirtilla e l'altra Camomilla. Quindi insomma benissimo, adesso si calma. Simona, allora buona serata e a prestissimo. Grazie mille, grazie ancora. Ciao. Prima di salutarci, giusto un attimo suggerimento. Suggerimento della nostra agenda. Dovete sapere che quando sono arrivata in Belgio la prima volta, questo già un decennio fa, mi duole il cuore dirlo, ma sì, più di 10 anni fa ormai, una delle cose più buone che avevo assaggiato qui era ovviamente una birra, ed era la birra della buona Esperance. La buona Esperance. Allora, ritrovo finalmente un evento che avrà luogo proprio presso l'abbazia della buona Speranza, e in cui sarà possibile quindi poter degustare tutte quelle che sono le specialità dell'abbazia. E quindi invito tutti coloro i quali prima di tutto hanno avuto modo di degustare quelle che sono le bontà dell'abbazia, perché dallo scorso 3 aprile, quindi tutte le domeniche e i sabato fino alla fine di settembre, dalle 14.30 fino alle 20.30 sarà possibile visitare l'abbazia e gustare questi squisiti prodotti, che sono quindi per esempio delle crêpes, un assiette campagnard, des croque monsieur, des escrivèches, insomma c'è veramente di tutto di più, e noi vi consigliamo di andarvi dove? Alla Rue Jurion a Verreuil-les-Breuil, e quindi insomma giù in Vallonia, e con questo credo che questa ricchissima puntata vuol già dire perché dobbiamo andare a segnalare, quindi bisogna scappare, siamo già lì. George, cara Mary, anche questa sera ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo congedare dai nostri amici. Ringrazio Fiordaliso e ringrazio Dani M. Vi auguriamo ancora una splendida settimana soleggiata e ci ritroviamo.